Dubi Dubi Du 2015, undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto del Dubi Dubi Du 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. La puntata di stasera è la numero 8 e quindi abbiamo superato la metà delle serate dedicate a questo festival, che ogni anno parte da ottobre e finisce a gennaio, proponendo appunto 10 artisti ogni settimana. Partiamo subito questa sera con un ottimo cantante, autore dei suoi pezzi, quindi compositore, un musicista completo che risponde al nome di Klaus Bellavitis. Klaus Bellavitis stasera lo ritroviamo al Festival delle Voci Jazz Italiane insieme ad una sua orchestra veramente esaustiva per le sonorità, completa, interessante, stimolante, che lo accompagna nell'esecuzione di questi pezzi raccolti nel progetto discografico Change, un live veramente molto interessante. Stasera noi ci potremo ascoltare proprio il pezzo che dà il titolo a questo progetto, e cioè proprio Change. Buon ascolto quindi con Klaus Bellavitis e la sua orchestra. I was driving on the highway when the thought banged in my head. Had to stop and think about it. All my rushing never ends. I lost my time for duties. I lost my life. Too much working and it ain't right. I remember it was Sunday, but the day to make a change. Lately I was getting crazy, too much pressure in my brain. So I took my brand new mobile, threw it far away from the moment I'm going to say. Now I need a change, change to remain the same. Promise. Bene, questo era il buon inizio che ci siamo concessi con l'ottimo Klaus Bellavitis, che dal progetto discografico Change, questo live realizzato insieme alla sua orchestra, ci ha fatto ascoltare appunto il pezzo che dà il titolo al progetto, Change, una sua composizione originale. Un live pieno di energia, le capacità di Klaus Bellavitis sono sia tecniche che interpretative, veramente un artista completo che promuoviamo sempre con molto piacere. Dopo Klaus Bellavitis è il momento di Laura Avanzolini. Laura Avanzolini torna al Festival delle Voci Jazz Italiane con il progetto discografico Skylark, con il quale è stata selezionata per il festival. Skylark è stato pubblicato da Zone di Musica e il progetto è vissuto insieme a Michele Francesconi, a Giacomo Dominici e Marco Frattini. Stasera noi ci potremo ascoltare l'interpretazione di But Not For Me. Buon ascolto quindi con la voce di Laura Avanzolini. Write songs of love, like the stars above. We love to lead the way, a far more clouds of gray than any Russian plague you gave into. I was a fool to follow, get the way I hold a lesson just like a day. Although I can dismiss the memory of this kiss, but not for me. And just like a day, although I can dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me. Although I can dismiss the memory of his kiss, although I can dismiss the memory of his Bene, questa era Laura Avanzolini. Laura Avanzolini che ci ha offerto questa sua splendida interpretazione, molto vibrante, con grande energia, con una capacità interpretativa fresca e sicuramente stimolante. Una cantante capace anche di uno scat travolgente, l'avete sentito, e quindi un gruppo anche molto complice di questa energia. Michele Francesconi al pianoforte, e poi Giacomo Dominici al contrabbasso, Marco Frattini alla batteria, sono stati compagni d'avventura veramente partecipi di questa bella energia che Laura Avanzolini ci ha fatto vivere con la sua interessante interpretazione. Il pezzo che ci siamo ascoltati era But Not For Me, tratto dal CD Skylark, pubblicato da Zone di Musica. E adesso andiamo avanti con un'altra interessante artista che si chiama Loretta Cimenti e che torna al Festival delle Voci Jazz Italiane con il progetto discografico The Peacocks. un progetto vissuto insieme ad Andrea Zullian al contrabbasso, Damian Krajacic al flauto, Eldad Tarmu al vibrafono, Enos Kugler alla batteria, Luciano Mosetti all'armonica, Nevio Zaninotto al sax, Renato Struccheli al pianoforte, Sergio Giangaspero alla chitarra, e quindi una band, come avete potuto ascoltare, di nomi conosciuti non solo nel nord Italia come tra i migliori e i più conosciuti musicisti dell'area, ma anche a livello nazionale nel suo senso più completo, musicisti di grande valore che vivono insieme a Loretta Cimenti questo progetto di interpretazioni molto interessanti di standards conosciuti e rivissuti con originalità. You'd Be So Nice to Come Home To è il pezzo che apre l'album, scritto da Cole Porter, ed è il pezzo che stasera Loretta Cimenti interpreta per la presenza nel nostro festival. Buon ascolto quindi con Loretta Cimenti e il suo ensemble. You'll be so nice by the fire. wanna be on high, sung a lullaby. You'll be all that I could desire. Under stars, a chill by the winter, under another moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come. Questa era la voce di Loretta Cimenti, che è stata selezionata anche quest'anno per il Festival delle Voci Jazz Italiane con il progetto The Peacocks, vissuto, come dicevo prima, insieme ad Andrea Zulian, Damian Krajacic, Eldad Tarmu, Enos Kugler, Luciano Mosetti, Nevio Zaninotto, Renato Struccheli e Sergio Giangaspero, tutti musicisti molto validi, e come avete sentito hanno condiviso con pienezza, con capacità tecnica, ma anche con sensibilità, questa bella interpretazione di Loretta Cimenti, valida interprete sia dal punto di vista espressivo sia dal punto di vista tecnico, con delle performance sempre all'altezza della situazione e con una bella fantasia, una bella creatività dal punto di vista improvvisativo. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato You'd Be So Nice to Come On To, il pezzo che apre l'album, appunto, intitolato The Peacocks. Andiamo avanti, dopo Loretta Cimenti è il momento di un gradito ritorno, una tra le più interessanti cantanti che io da anni propongo nei miei programmi e che risponde al nome di Antonella Vitale. Antonella Vitale ha realizzato un bel disco intitolato Songs in My Heart, l'ha fatto per la Albore, una casa discografica che io seguo con interesse per le sue proposte, una casa discografica giapponese che propone con grande attenzione il buon jazz italiano. Il CD è ricco di belle presenze musicali: Andrea Beneventano al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso, Alessandro Marzi alla batteria come gruppo di base che accompagna Antonella Vitale, ma in alcuni pezzi poi sono presenti anche special guest quali Antonello Salis e Giancarlo Maurino. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è intitolato Blue in Green, sentiamo l'interpretazione che ci offre Antonella Vitale. Buon ascolto. Found the harbor light. Our life is but a dream. So blue and grim, powerful it seems. The end draws near with each passing. Thank you. Bene, questa era la brava Antonella Vitale, una cantante di grande esperienza con una capacità interpretativa ricca di colori e nello stesso tempo elegante e raffinata. Insieme a lei Andrea Beneventano al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria. Noi ci siamo ascoltati l'interpretazione di Blue in Green che Antonella Vitale ha vissuto con gentilezza e grande capacità tecnica. Ricordo che il CD è intitolato Songs in My Heart, pubblicato dalla Albore Jazz. E adesso proseguiamo con Giorgio Rossini, che è stato selezionato per il Festival delle Voci Jazz Italiane con il progetto discografico About Jazz. About Jazz è un CD che vede Giorgio Rossini alla voce, ma anche alla chitarra e agli arrangiamenti, Emanuele Proietti al pianoforte, e poi abbiamo Alessandro Berti al contrabbasso, Marco De Cafis al sax tenore e Angelo Ferrua alla batteria. Il progetto è piuttosto interessante, con delle interpretazioni originali, e noi stasera ci possiamo ascoltare l'interpretazione di The White Birds. Buon ascolto quindi con Giorgio Rossini alla voce. I would that we were my beloved white birds on the foam of the sea, with our hollow flame of a meteor before it can fade. And the flame of the blue star of twilight and glow of the rim of the sky has awakened in our heart a beloved sadness that may not die. Our weariness comes for the dreamers to double the lily and rose. That goes on the flame of the blue star that lingers and glow in the fall of the dew. For I would have ever changed to white birds on the wonderful phone and you. I'm at the man and less and less, and many times I'm sure where time will surely forget us. And so long, Cornel, ask more. So long, Cornel, ask more. So long, Cornel, ask more. Near ask no more. Suffer from the rose and the lily. And play top on the place would be. Where we only white birds. My beloved boys on the full moon to see. That we were my beloved white birds on the foam of the sea, turn on the flame of the meteor before it can fade and flee. And the flame of the blue star draw light and glow on the rim of the sky as I awaken in our hearts, my beloved, a silent that may ascend to them and not die. Bene, ci siamo ascoltati anche Giorgio Rossini. Giorgio Rossini che in questi pezzi che presenta nel progetto discografico About Jazz si impegna soprattutto non solo nell'interpretazione canora, ma anche nella scrittura dei testi. In questo caso appunto i testi erano suoi. Il CD presenta 10 pezzi, uno più interessante dell'altro, con delle varietà di linguaggio molto fantasiose, creative, che rendono l'ascolto molto vivace, molto attento. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato The White Birds. Ricordo la formazione: Giorgio Rossini alla voce ma anche alle chitarre, Emanuele Proietti al pianoforte, Alessandro Berti al contrabbasso, Marco De Cotis al sax tenore, Angelo Ferrua alla batteria. Il CD è intitolato About Yes. E adesso passiamo a una novità discografica proprio fresca, fresca, fresca. Si tratta del nuovo CD di Rosanna Fedele, che insieme al Paolo Bernardi Quartet ha pubblicato proprio da poco Sogni Diversi, questo bel CD dal quale noi stasera potremo ascoltare una composizione originale della stessa Rosanna Fedele intitolata Questo Jazz. Buon ascolto con Rosanna Fedele e Paolo Bernardi Quartet. Jazz mi ricorda la notte del mio volo, dove andavo mi chiedevo lungo la strada, si trattava di felicità. Bye. Siamo ascoltati Rosanna Fedele. Rosanna Fedele che ci ha presentato questa sua particolare composizione originale intitolata Questo Jazz, per la quale appunto ha composto sia la musica che i testi. Il CD è molto interessante, con delle felici intuizioni compositive e delle belle interpretazioni. Si tratta di un CD realizzato, come dicevo prima, insieme al Paolo Bernardi Quartet. Paolo Bernardi Quartet, che è formato da Paolo Bernardi al pianoforte, Piercarlo Salvia al sax tenore, Giuseppe Talone al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. Il CD Sogni Diversi è stato pubblicato dalla Beta Produzioni. Bene, lasciamo questa bella interpretazione di Rosanna Fedele per ascoltarci un'altra interessante artista, che si chiama Fabiola Trivella e che per l'Alfa Music ha realizzato un CD intitolato Swing Soprano, dal quale noi ci potremo ascoltare l'interpretazione di Colpevole, scritta da Fasano, Grottoli e Vaschetti. Buon ascolto quindi con Fabiola Trivella. Perché colpevole di un palpito che mi ha toccato nel profondo, colpevole di averci provato con quello sguardo in più. Piacevole il sintomo di abbandonarsi insieme a te. Ma perché questa vita non è mai come la vorresti tu? Perché invece adesso non è più lo stesso senza te, senza di te. Colpevole di averci pensato e aver tenuto tutto dentro, colpevole o debole per non averti ancora qui. Ma perché questa vita non è mai come la vorresti tu? Non è più lo stesso senza te, senza di te. Colpevole di averti incontrata, non so neanche il perché. Colpevole di averti incontrata. detto ancora sì. Colpevole di averti qui, di averti detto ancora sì. Questa era la voce di Fabiola Trivella, Fabiola Trivella che dal CD Swing Soprano pubblicato da Alfa Music ci ha fatto ascoltare la sua interpretazione di Colpevole, scritta da Fasano, Grottoli e Vaschetti, il pezzo che fu portato al successo dal grande Nicola Arigliano a Sanremo. Il gruppo che accompagna Fabiola Trivella in questo progetto discografico è formato da Claudio Zitti, che cura anche gli arrangiamenti, quindi l'arrangiamento di Colpevole è stato curato da lui, Michele Ascolese alla chitarra, Gegè Munari, glorioso batterista, Massimo Davola, uno dei più bravi sassofonisti del panorama jazzistico italiano, che in questo progetto suona il sax ma anche il clarinetto, Giorgio Rosciglione, anche lui gloriosissimo contrabbassista del jazz italiano. Una band quindi di grande rilievo per questo progetto discografico che vede Fabiola Trivella tra l'altro impegnata anche in mix tra il jazz e la musica lirica, la musica classica. Lasciamo Fabiola Trivella con il suo CD Swing Soprano ed andiamo avanti con il gruppo di Mort Sandis che ha come cantante, come voce Elisabetta Maulo, protagonista assoluto del blues nazionale con il suo Betta Blues Society, ma impegnata anche da qualche tempo in ambito jazz, appunto con questa formazione. La Mort Sandis, per la improvvisatore involontario, ha realizzato un CD intitolato Early, dal quale noi ascolteremo l'interpretazione di On the Sunny Side of the Street. Buon ascolto quindi con il gruppo di Mort Sandis per la voce di Elisabetta Maulo. Grab your coat and get your hat, leave your worry over the stage. Just erect your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a beat of bait and that happy tune is your stay? Life can be so sweet on the sunny side of a street. I used to walk in a shade with a blues on parade, but Bene, questo era il gruppo di More Sundays, la voce di Elisabetta Maulo. Elisabetta Maulo che, come dicevo prima, è una delle più grandi interpreti blues del nostro paese, ma da qualche tempo è anche impegnata con progetti jazz. In questo caso con questo gruppo che si chiama More Sundays ha realizzato questo CD intitolato Early per la improvvisatore involontario, e il gruppo è formato, oltre che da Elisabetta Maulo alla voce, da Pier Giorgio Pirro al pianoforte, che cura gli arrangiamenti e le composizioni originali, da Tony Cattano al trombone, da Beppe Scardino al clarinetto basso e al sax baritono. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato On the Sunny Side of the Street, un pezzo che Elisabetta Maulo ha interpretato magistralmente con il suo sentire, con la sua grande sensibilità, la sua grande capacità interpretativa. Dopo More Sundays e la voce di Elisabetta Maulo andiamo avanti con Sarah French Quintet, un gruppo che è capitanato dalla cantante Sarah Longo, e con questo CD Amada Mia si sono presentati al pubblico non solo nazionale ma anche quello internazionale, in particolare quello francese. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è intitolato proprio Amada Mia, come il titolo del CD. Buon ascolto quindi con la Sarah French Quintet con la voce di Sarah Longo. Amada mía, soy enamorado, estoy enamorado. Te quiero tanto que ya no puedo vivir si no te veo reír. Cuando me hablas de amor, soy tan feliz. Porque me quieres como te quiero yo. Parapa. Oh, amada mía, estoy enamorado, estoy enamorado. Ah, qué feliz es vivir y cantar con emoción esa canción. Sueño, bailo, río y canto. Porque te quiero tanto, tanto. Enamorado estoy. Te quiero yo. Para, pa. Oh, amada mía. Estoy enamorado, estoy enamorado. Oh, qué feliz es vivir y cantar con emoción esa canción. Sueño, bailo, río y canto. Porque te quiero tanto, tanto. Enamorada estoy. Enamorada estoy. Enamorada estoy. Enamorada estoy. Enamorado estoy. Enamorado estoy. E questa era la voce di Sarah Longo, Sarah Longo che è la leader del gruppo Sarah French Quintet, dal CD Amada Mia. Noi ci siamo ascoltati proprio l'interpretazione del pezzo che dà il titolo al CD, Amada Mia, realizzato appunto con la partecipazione di Monica Acevedo al violino, Vincent Locher al clarinetto, David Brisset e Clement Reboul alla chitarre, Stéphane Zubano Diarra al contrabbasso. Il pezzo, come avete sentito, è simpaticamente in stile hot jazz, swing, e vissuto con grande gioiosità, con una bella complicità d'ensemble, con la bella voce di Sara Longo che con un taglio particolare ha saputo interpretare al meglio questo pezzo. Amada mia! E salutiamo il Sara French Quintetto per dare il benvenuto a Francesca Corrias, un'artista molto particolare e interessante che si presenta per la prima volta al Festival delle Voci Jazz Italiane con il CD Songshine, dal quale noi ci potremo ascoltare l'interpretazione di Blackbird. Buon ascolto quindi con Francesca Corrias. This moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be. Bene, ci siamo ascoltati Francesca Corrias. Francesca Corrias dal CD Songshine che vede la nostra cantante insieme a Stefano Danna al sax, Alessandro Di Liberto al pianoforte, Filippo Mundula al contrabbasso e Pierpaolo Frailis alla batteria. Una band che supporta Francesca Corrias in questo CD molto interessante, con delle particolarità anche di fusione tra il jazz e la musica e i ritmi africani. Per il festival abbiamo scelto questo pezzo storico del jazz internazionale che Francesca Corrias ha interpretato veramente molto bene, Blackbird. E siamo arrivati all'ultimo artista della serata. Si tratta di un gradito ritorno, quello di Leo Pianoforte, cantante, sassofonista e compositore. Un bel CD questo My Soul, pubblicato dalla 12 Lune, dal quale noi andremo ad ascoltare una sua composizione originale intitolata About Me, About You. Buon ascolto con Leo Pianoforte. Tell me everything you do, and please me with your story. I won't stop if you. All the time I didn't think I'd lost a chance. All the time I thought of you, I always got your smile. About me, about you. About me, about you. About you, about me, about you, about me. A story now it looks so clear. We start from nothing, so many miles away. About you, you add me with the simple things, the days of joy you get me in every way you did. Life so cool, so strange, so fine, you give to me. Life unique like you forever. About me, about you. About me, about you. About me, about you. About me, about you. About me, about. Questa era la voce di Leo Pianoforte, come dicevo prima, Leo Pianoforte che è un compositore, oltre che un cantante, ed è anche un sassofonista, arrangiatore, insomma un artista completo dai tanti colori. My Soul è il titolo del CD pubblicato dalla 12 Lune, dal quale noi ci siamo ascoltati About Me, About You, una sua composizione originale, realizzata insieme a Rosario De Luca alla tromba e flicorno, Beppe Fortunato alle tastiere, Beppe Sequestro al basso elettrico e Felice Di Turi alla batteria. Una bella performance quella di Leo Pianoforte, che chiude anche questa serata, la ottava del Festival delle Voci Jazz Italiane. L'appuntamento è come sempre a lunedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e dal Dubidubidù 2015, undicesimo Festival Radiofonico delle Voci Jazz Italiane.